Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Che storia, Chiara, adesso te la racconto. Sono molto curiosa, lo sai. Benvenuti a Mebius, adesso i titoli e poi incominciamo. Lo sapevate voi che 3000 anni fa le danze cretesi erano le più belle e celebri del Mediterraneo? Fusione Fredda, dopo il nostro streaming in diretta e le tante osservazioni ricevute da tecnici di diversi paesi, l'azienda Defcalion decide di effettuare misurazioni più precise. Cos'è il Kamut? Perché arricchire le patate col selenio? Biologico vuol dire più sano? Nel suo ultimo libro, il chimico Dario Bressanini analizza miti alimentari e trucchi commerciali dell'industria del cibo. Si chiama termovuoto ed è un nuovo materiale legnoso, bello, resistente e amico dell'ambiente. Chiara, ti porto sì. A Creta. Bellissimo, in agosto proprio è il perfetto. Mio posto, perfetto. Grandi spiagge, lunghe spiagge, ma qui mi sa che andiamo al centro. Ma ti porto a Creta davvero. Ecco, adesso poi gli ascoltatori diranno, ma come mai uno sa le cose e l'altro no? Ma noi ogni tanto facciamo sì, così. Sì, io in questo momento sono ignara di tutto e aspetto che mi raccontiate una storia. Allora, Anna Lucia D'Agata, buonasera. Buonasera a voi da Creta. Lei è a Creta? Io sono a Creta, sì. Però è anche dirigente di ricerca del CNR e dell'Istituto di Studi nel Mediterraneo Antico, quindi è lì nella sua veste di archeologa. Esattamente. Senta, D'Agata, lei ha scritto un bell'articolo apparso sulla lettura del Corriere che inizia così. Sappiamo tutti oggi che le danzatrici e i danzatori cretesi erano i più bravi, i migliori. E andiamo indietro di quanto? 3000 e passa anni? Beh, poi sapete tutti, forse no. Io non lo sapevo. E invece questa è la notizia, questa è la notizia. Quanto tempo fa erano i più bravi? E dunque, allora diciamo che io intendevo dire non sappiamo tutti, ma sapevano tutti nel mondo antico. Sì, il certo. Mondo antico per noi significa appunto nel mondo soprattutto greco, quindi diciamo tra l'VIII e il primo secolo avanti Cristo sapevano tutti che i cretesi erano i più abili nella danza. Come fa a saperlo lei, Adele? Lei ce lo dice. Con certezza, tra l'altro. Con certezza. Con assoluta certezza. Intanto lo sapeva di già Omero, lo sapeva bene Omero, e addirittura Omero attribuiva a qualcuno dei suoi eroi, appunto eroi cretesi, la capacità di muoversi bene, quindi di essere molto agile con la lancia e con la spada, proprio perché era un'abile ballerina, e questo per esempio era Merione. E con Omero arriviamo all'VIII secolo avanti Cristo, per appunto rispondere alla vostra domanda cronologica. Sì. Ma Omero ci dà un quadro anche di un momento più antico dell'VIII secolo, cioè possiamo risalire al secondo millennio, a quella che è nota come civiltà minoica, quindi risaliamo all'età del bronzo, perché Omero ci dice che Dedalo, famoso architetto, costruì per Arianna una pista da ballo a Cnosso. No. Per far sì che Arianna appunto ballasse. Quindi la fama dei cretesi come ballerini addirittura risale all'età del bronzo. Poi che questo sia vero o no non ha importanza, a noi interessa il fatto che nel mondo antico tutti sapevano che i cretesi erano i migliori ballerini. Sì, ma come fate spesso voi archeologi, no? Questo lo sai, Chiara, andate a vedere le storie raccontate una volta e incominciate a dire, ma qui se raccontavano queste storie ci sono dentro pezzi di verità, no? E poi le è andata a vedere anche dove, cioè su vasi, su iscrizioni, dove? Infatti hai pronunciato una parola, vaso, che adesso... Ah, ho anticipato qualcosa. Una parola magica, una parola magica. Beh, noi siamo stati molto fortunati, c'è una missione greco-italiana che io dirigo, che ha scavato un sito importante, adesso siamo in fase di studio, lo scavo si è momentaneamente interrotto, un sito importante che si chiama Sivrita, che corrisponde a una città antica di Creta, una delle città menzionate da Omero, appunto. Dunque noi abbiamo scavato la fase più antica di questa città, la fase che va appunto dal XII all'VIII secolo avanti Cristo, e all'interno di un edificio che risale al X secolo avanti Cristo abbiamo trovato un cratere fittile che appunto io non esito a definire rivoluzionario, appunto perché fa risalire indietro prima di Omero, e quindi in qualche modo dà anche ragione a quello che ha detto Omero, fa risalire indietro l'origine della danza armata. Infatti questo cratere è decorato con una magnifica scena di danza armata. Allora, aspetti, ci fermi un attimo. Cratere vuol dire un bel vasone, no? Ah, ecco. Cratere vuol dire un grande vaso, è il vaso in cui gli antichi greci mescolavano il vino e l'acqua in occasione dei simposi, dei banchetti pubblici, sì. Quindi è un vaso speciale, un vaso che ha un significato simbolico e sociale molto importante. Quindi alcol, discoteche, divertivano. Grande quanto, D'Agata, cos'è? Dunque, questo cratere in realtà non è molto grande, perché diciamo che il suo diametro è intorno ai 20 centimetri ed è alto grosso modo lo stesso. E lì ci sono scene? E poi diceva, infatti, danza armata. Io ero curiosissima di capire, infatti, quale fosse lo stile, il tango piuttosto che la tarantella, invece no. No, è una danza aggressiva, in qualche modo violenta. Sono rappresentati tre guerrieri, i quali, badate bene, non si toccano, quindi non è una danza collettiva comunitaria, sono tre guerrieri singoli, con le mani rivolte in alto, le braccia in alto, le palme aperte, ciascuno dei quali indossa lo scudo. E ciascuno di essi ha un'arma di testa, chi ha la lancia, chi ha la spada. Questi guerrieri sono rappresentati nell'atto di saltare, cioè i piedi di questi guerrieri non poggiano su quella che noi immaginiamo essere la base, il vaso e dunque il piano, ma sono rappresentati nell'atto di saltare. Questo è un elemento in più che ci conferma la assoluta particolarità di questa scena. Mi è venuto in mente che i Masai danzano, guerrieri, con le braccia alzate o lungo il corpo e saltellando. Sì. Sembra un agguato la scena che lei c'ha. Infatti è proprio, può essere intesa anche come un agguato. C'è una splendida descrizione della danza armata che viene data da Platone nelle Leggi, e in cui appunto si descrive esattamente come questo guerriero, appunto così equipaggiato con queste armi, salta e poi ritorna a terra, si accuccia, salta e si riaccuccia per simulare l'imboscata. L'imboscata è un tipo, diciamo così, associato a un tipo di guerriglia che è a sua volta associato a Sparta e a Creta. Ma una cosa volevo chiederle: il fatto che appunto siano ripresi, raffigurati in questo modo, in questo movimento particolare, ci fa escludere il fatto che non sono guerrieri che stanno combattendo realmente, insomma, che stanno danzando, ho capito bene? Direi che con le mani è difficile, lei stessa portava l'eccellente confronto dei massacri, certo. Con le palme, no? Con le mani in alto è difficile combattere, certo. E d'altro canto noi abbiamo tante rappresentazioni di guerrieri che combattono, di guerrieri che marciano, per esempio, e che sono le più tipiche in quella fase. Possiamo sapere qualcosa su invece la musica che li accompagnava, ad esempio? Infatti, noi non sappiamo nulla, diciamo, non riusciremo mai a capire. Il contesto musicale nel vaso è anche rappresentato, sebbene uno stile molto, diciamo, primitivo, chiamiamolo così, non particolarmente raffinato, è rappresentato in primo luogo una lira, e quella è facilmente riconoscibile, una lira a quattro corde. Voi sapete che la lira è formata da due brappi di legno alla quale si agganciava un guscio di tartaruga che fungeva da cassa armonica. Tutto questo è rappresentato sul vaso, cioè lira più guscio di tartaruga. Accanto adesso un timpano, a dire uno scudo se volete, comunque un tamburo circolare di metallo, di pelle di bue, su cui si poteva battere. È come se noi avessimo su questo vaso una sorta di palinsesto, cioè ci dà una serie di indicazioni, come ci abbiamo noi qua in radio. Perfetto, esattamente, una magnifica scaletta antica in cui riusciamo quasi come in un puzzle a rimettere le cose a posto. Senta, D'Agata, ci manda qualche foto che le mettiamo sul sito, io adesso sono curiosissima di vederle. Naturalmente. Okay. Scavate, abbiamo bisogno grazie di altri mille. Vasi. Sì, davvero, anzi ci faccia sapere se viene fuori qualcosa di nuovo. Con dei fari, qualcosa tipo discoteca. Arrivederci, grazie a voi. Arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. In queste ultime settimane, insomma nel mese di luglio, direi, abbiamo seguito un po' alcune vicende che riguardano la fusione fredda. Probabilmente una parte di voi che ci state ascoltando ha partecipato a questa cosa che è stata lanciata anche dal sito di Radio 24, a questa performance con la quale noi vi abbiamo fatto vedere da un laboratorio un tipico assetto di esperimento di fusione fredda. Dire esperimento non vuol dire che essa funziona, vuol dire semplicemente far vedere come sono messe le apparecchiature e che tipo di misure si fanno. Però certo molti di voi non avranno partecipato, non avranno visto questo video, però vi dico, andate al sito di Moebius, www.moebiusonline.eu, e da lì noi vi possiamo dare le indicazioni per linkare al video. Abbiamo fatto una prima trasmissione di un'ora e un quarto, nella quale abbiamo descritto tutti i particolari sia del marchingegno fisico che di quello che riguarda le polemiche, le tante contraddizioni, le tante contestazioni che vengono fatte a questo territorio controverso che si chiama fusione fredda, che poi vedremo, l'abbiamo anche detto durante la trasmissione, in realtà può essere una definizione sbagliata, ma queste sono cose, diciamo, del tutto secondarie. L'intento assolutamente di questo tipo di trasmissione non era quello di farvi vedere che funziona, ma era quello, presso un largo pubblico, di spiegare come stanno le cose. Perché? Beh, perché sono 2 anni e mezzo che si sente parlare di questa cosa, ma è diventato un dibattito molto chiuso tra addetti anche che fanno informazioni, e insomma praticamente è come se avessimo discusso per 2 anni e mezzo del fatto che una slot machine possono apparire le 2 ciliegine, ma le 4 ciliegine non appariranno mai perché ci può essere una truffa, e però il largo pubblico non ha mai visto una slot machine. E allora bisogna assolutamente far vedere di che si tratta e far vedere dove ci possono essere i punti critici. La cosa singolare è che poi si è aggiunta a quella nostra trasmissione anche una diretta nella quale noi non c'entravamo, di circa 10 ore, nella quale si è fatto vedere, per degli addetti ai lavori, si è fatto vedere l'esperimento, l'assetto con molti molti più particolari, e ricevendo una quantità di domande molto vasta, ma di questo ne parlerò fra poco. Mentre invece saluto qua, che è in studio, Luca Gamberale. Buonasera Gamberale. Buonasera. Lei è un fisico teorico, e allora noi abbiamo fatto questa demo, questa trasmissione sull'apparato di fusione fredda, collegandoci con i laboratori della Defcalion Europa, di cui appunto lei è uno dei rappresentanti, lei è uno dei curatori degli aspetti tecnici. La cosa interessante però che è venuta fuori nell'ultima settimana è che proprio sulla base di quel dibattito grosso che c'è stato, Gamberale, è stato anche dal punto di vista, come si può dire, delle nuove dinamiche informative abbastanza interessante. Io lo suggerisco ai nostri ascoltatori, se vanno a vedersi quel video, contiene anche tutte le domande e risposte, no? Le domande che arrivavano, e abbiamo avuto, non so, c'erano 15.000 contatti. A un certo momento c'erano tecnici dalla Russia, sì, da tutto il mondo, sì, da tutto il mondo, che mandavano vi hanno caricato di domande in un modo particolare. Poi c'era anche un momento, perché questa cosa voi l'avete fatta su richiesta della conferenza sulla fusione fredda che c'era nel Missouri, no? A Columbus. Esatto. Perché loro vi avevano chiesto: fateci vedere il vostro trabiccolo, e noi vogliamo fare un po' di domande. E lì ne sono arrivate parecchie. Da queste domande, ecco il motivo particolare per cui torniamo in onda, vi sono arrivati dei suggerimenti per fare misure in modo diverso. Sì, in realtà noi stessi abbiamo individuato alcune criticità nella misura, sì, che a dire il vero sono risultate anche evidenti in diretta, che ci hanno fatto riflettere un attimo sulla opportunità di approfondire questi aspetti tecnici, questi che aspetti fino ad ora non si erano rivelati e che però richiedono assolutamente un approfondimento. Un approfondimento. Beh, in questo quindi è stato estremamente utile riuscire ad avere questa grande kermesse. Ecco, però, Gamberale, diciamolo sempre, perché appunto non possiamo pensare che tutti quelli che ci ascoltano in questo momento hanno visto il video, diciamo che anche questa demo lunga di 10 ore, nemmeno alla conferenza nel Missouri, era vissuta come qualcosa che doveva dire se la fusione fredda c'è o non c'è. Era qualcosa in cui, molto più in verticale di quanto era stato fatto prima nella nostra trasmissione, serviva a vedere com'era questo apparato, insomma, esatto, con infatti, molti più particolari. Io più che esperimento lo chiamerei una dimostrazione. Una dimostrazione di quello sì, che c'è. Sì. Perché qui, e noi l'abbiamo detto e ridetto anche in una trasmissione prima, c'è una grande contraddizione. Da una parte c'è la ricerca industriale che ha le sue segretezze, dall'altra c'è la ricerca scientifica. Insomma, beh, qui viene da dirvi, dovete trovare un modo per andare insieme, perché è chiaro che dal punto di vista industriale non si possono dire le cose, però noi non sappiamo ancora. Io, a un certo momento eravamo insieme e gli ho detto, ma scusi, dentro questo scatolotto c'è un criceto che gira su quelle rotelle, eh? Magari facendo un'ispezione a casa sua a Gamberale troviamo croccantini per criceti. Ma chissà. Oddio, sa. No, dico, ci stiamo ridendo, però noi oggettivamente questa cosa qui non la sappiamo. Mi dica se sbaglio però, perché vorrei spiegarlo agli ascoltatori. Quando si parla di misure, il pensiero va rapidamente a, che ne so, c'ho qui un sacco di stoffa, quanto è lunga? Prendo il metro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oppure questa è la stanza dei bambini quando si va a comprare magari un appartamento. Quanto sarà grande? 4 per 5. Quando si va invece a fare misure di tipo fisico, le cose si complicano. Vorrei fare un esempio. Soprattutto si complicano quando del fenomeno di cui si parla non c'è nemmeno una teoria. No? Vorrei fare un esempio. Se non sapessimo niente dell'influenza, avessimo solo delle intuizioni, però avessimo capito che forse c'è qualcosa che si parla di temperatura. Allora, se io metto un termometro in bocca o sotto l'ascella, se lo metto dietro l'orecchio, probabilmente posso avere un dato in questo diverso che non serve a niente. In questo esperimento, come in tanti altri, per esempio, dove andiamo a misurare ha una grande importanza, insomma, no, non è banale la misura, non è che c'è un apparecchio standard. Ed è un po' la ragione per la quale dopo più di 20 anni siamo ancora a dibattere su questi temi, sì, che... perché se fosse una cosa elementare fare misure di questo tipo, già si saprebbe, sarebbe di dominio pubblico come stanno le cose. Sì, no? Certo. In realtà questo tipo di ricerca è molto difficile proprio perché esistono molti aspetti della misura che possono essere criticati e infatti questo è avvenuto sin dall'inizio, sin dalla famosa conferenza di Fleischmann e Pons, in cui loro presentarono, va bene, in una forma poco inconsueta i loro risultati, ma comunque risultati seguiti anche da pubblicazioni scientifiche, sì, su giornali importanti, e queste misure sono state completamente screditate e si è considerata la misura completamente sbagliata. Questo fatto è andato avanti, direi, fino ai giorni Anche a quest'ultima cosa. Voi avete la sensazione, appunto, che da quello che avete raccolto bisogna misurare in modo diverso. Ma le voglio chiedere questa cosa, perché ci sono molti, non quelli contrari, non quelli che dicono che c'è in di mezzo una truffa, che però dicono che questo fenomeno qui magari è un fenomeno fisico di tipo nuovo, e quindi magari molto importante teoricamente. Però siccome il marchingegno funziona dal punto di vista applicativo, se entra uno ed esce quattro, potrebbe essere invece che questa cosa qui funziona ma entra uno ed esce 1,5. Quindi qualcosa che dal punto di vista industriale non servirà, certo, assolutamente a niente. Potrebbe essere anche così. Potrebbe. Bisogna fare una distinzione a questo punto, perché mentre magari da un punto di vista industriale la cosa avrebbe una importanza molto risibile, da un punto di vista scientifico un risultato certo di questo tipo sarebbe rivoluzionario, esatto, ovviamente. A me preme dire che in realtà per coloro che conoscono un po' nel dettaglio l'argomento, la questione dell'esistenza di alcune fenomenologie di, chiamiamola, reazioni nucleari nella materia condensata, sono al di là di ogni dubbio ormai, sì, perché c'è un'ampia letteratura anche su giornali peer-reviewed, su riviste che hanno tutti i comitati di controllo della scientificità, che dimostrano chiaramente che in determinate condizioni avvengono delle reazioni che non sono, diciamo, previste dalla fisica nucleare classica, quella che abbiamo avuto fino adesso, quella che sulla quale si basano i reattori a fissione, le bombe nucleari, eccetera. E a mio parere questo sarebbe sufficiente per lanciare degli importanti programmi di ricerca in questo campo. E chiedo rapidamente un'ultima cosa. Allora, Defcalion Europa in realtà è composta da anche un'azienda italiana, la MOSE, che è in società con la Defcalion, che è un'azienda greca. Voi come MOSE siete responsabili di tutta una serie di della parte, diciamo, di relazione con le non poche aziende, realtà industriali. Quali... un contratto di carattere commerciale. Ecco, a questo punto però allora queste relazioni si sono sospese. Assolutamente, abbiamo rilevato dei punti da approfondire da un punto di vista tecnico e la prima cosa che abbiamo deciso di fare è di congelare, diciamo, di rallentare le relazioni in corso, le relazioni che comunque ci sono, e comunque di bloccare tutto prima di avere un'idea chiara, fino a quando non avremo un'idea chiara su effettivamente come stanno questi punti critici da approfondire da un punto di vista tecnico. Luca Gamberale, grazie e buon lavoro. Grazie molte. Bene, con questa ulteriore trasmissione abbiamo aggiunto un altro tassello a questa attività di descrizione di tutta la vicenda che riguarda la fusione fredda cosiddetta, perché come vi abbiamo spiegato si potrebbe anche interpretare in altro modo. Qualcuno ha sollevato dubbi su questa nostra attività segnalando che dare spazio a certe realtà che operano in questo controverso territorio, come la Defcalion per esempio, vuol dire certificare, dare valore ad attività che possono essere poco serie, ingannevoli. Allora, innanzitutto, non vorremmo ripeterlo ulteriormente, abbiamo abbondantemente descritto tutti gli aspetti critici della storia, ma siamo un po' sorpresi da questo invito, chiamiamolo così, a non dare spazio a chi potrebbe approfittarne, perché ecco il punto, molto, ma molto prima del giornalismo scientifico, viene il giornalismo con la sua regola fondamentale: non ci deve essere spazio per ragionamenti sulle notizie da dare e quelle da non dare, perché il referente unico di base del giornalismo è il pubblico, il quale deve ricevere le notizie e deve essere messo in condizioni di poter capire. Poi ne possono seguire tante cose belle o brutte, ma dopo. In questa storia è del tutto evidente che se si tace sono proprio le intenzioni truffaldine che hanno molto più spazio per agire. Se penso poi a una porzione significativa del pubblico di Radio 24, fatta certamente da molta gente che ha imprese, ecco che una buona descrizione delle carte sul tavolo ha una funzione fondamentale. Stiamo quindi lontani da quel genere di discussioni che si fece un tempo. Mi ricordo quanto avvenne, se non sbaglio, in occasione della prima serie della Piovra in TV, quando ci fu chi disse: con queste trasmissioni facciamo vedere quanto la mafia è potente. Infatti l'alternativa per anni era stata che, in un gran silenzio, un'affermazione diffusa era: la mafia, ma dov'è? La mafia non esiste. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. L'altra sera, Chiara, guardavo i 10 comandamenti in televisione, dove c'è Charlton Heston che fa Mosè. Un filmone. E in casa loro, nella famiglia, si vede che mangiano il Camot. No, non è possibile. Sì, sì, è riconoscibilissimo. Ah, va bene, va bene. Beh, qualcuno lo avrà pensato oltre a te. Adesso sentiamo cosa ne pensa invece il nostro esperto, perché qui con noi stasera Dario Bressanini. Buonasera, Dario. Sì, buonasera. Buonasera. Ci diamo del tu perché sei divulgatore bravissimo come noi. Non come noi bravissimo, ma come noi, come noi divulgatore, intendevo dire. Ma siete bravissimi anche voi. Vabbè. Ma soprattutto sei ricercatore presso il Dipartimento di Scienze e Alta Tecnologia dell'Università degli Studi dell'Insubria a Como, e poi sei un lettissimo blogger per La Scienza in Cucina, che è un blog delle scienze veramente molto seguito, molto seguito. Da noi. Ecco, allora, allora, tu sei uscito con il tuo ultimo libro, aveva avuto un grande successo, Pane e Bugie, e questo è un po' un, diciamo, non un proseguimento, ma insomma filo, è su quel filo lì, le bugie nel carrello, cioè tutto quello che si cela tra gli scaffali del supermercato, le leggende, i trucchi del marketing sul cibo che compriamo. Edizione Chiare Lettere. Il nostro Alberto Agliotti della redazione è andato fuori da un supermercato e ovviamente, avendo letto il tuo libro, avendo visto un po' i capitoli, ha fatto qualche domanda in particolare, quindi ti farei ascoltare questo audio relativo proprio al Camut e poi entriamo in dettaglio. So che è un grano antico ed è una farina che, se non ricordo male, arriva dall'Egitto, proveniente dall'Egitto. Da quello che ne so e dalla mia esperienza, la digerisco meglio del grano normale, che da quanto ho capito è stato lavorato negli anni. Trovo che sia molto più corposo e gustoso. Un marchio registrato di un cereale, diciamo alternativo, venduto come antico, che viene utilizzato per sostituire gli altri cereali per le persone che sono intolleranti o allergiche ai comuni cereali. È un tipo di grano tipo il saraceno, che si chiama Khorasan, commercializzato col marchio Kamut, in quanto appunto ditta che ha questo nome qua. Ovviamente questo è un tipo di grano che può essere comunque anche prodotto e coltivato comunque in altre parti del mondo. So che è una roba che fa bene, deve essere una roba tipo grano, cosa? Egitto? No? Nord Africa, paesi, è una forse un integratore alimentare o comunque una cosa che avrei. Io non lo mangio, io mangio altre cose, ma che fanno bene lo stesso. Però è una farina poi il kamut. Dario, di cos'è? Tutto. Di tutto ci hanno detto: cereale, farina dell'antico Egitto, dei paesi nord, del sì, Nord Africa, dalla Svezia al Sudafrica. Ecco, sì. Che cos'è? Allora, qualcuno delle persone che avete ascoltato ci ha azzeccato, nel senso che Kamut, la parola Kamut è effettivamente un marchio registrato. Non è un nome scientifico di un antico cereale, ma è un marchio registrato di un cereale che si chiama grano Khorasan, che non è originario dell'Egitto, anche se questa è la leggenda che gira. Ah, no. È originario dell'Anatolia ed è tuttora coltivato in quelle regioni, o in Iran e anche in Egitto. Solo che la leggenda, costruita un po' ad arte dal marketing, vuole che un aviatore americano, dopo la Seconda Guerra Mondiale, si sia calato dentro una tomba, come Indiana Jones, abbia trovato dei semi. Certo, lo facevano sempre gli aviatori americani, sì. Esattamente, semi vecchi di 4.000 anni che poi li ha spediti in Montana, che miracolosamente sono germogliati, ecco. Cosa che questa è una leggenda accattivante, ma quasi sicuramente falsa, anche perché all'epoca degli antichi egizi non si coltivava il grano o il frumento, si coltivava soprattutto il farro, l'avena, come all'epoca romana. No, e poi dei semi di 5.000 anni, diciamo, no, non era molto semplice che germogliassero. No. Però è verissimo appunto che è un grano che è simile al grano duro, che ha un sapore un po' particolare, ed è vero che è tutto sotto lo stretto controllo di un'azienda, l'unica che può usare il nome Kamut, che è la Kamut International, che è a base nel Montana. Per cui tutto il Kamut che noi acquistiamo, l'Italia ne consuma più del 50% della produzione globale. È uno dei maggiori consumatori. Assolutamente, e arriva però tutto da là, perché non è coltivato in giro per il mondo. Cioè, in giro per il mondo si può coltivare, si coltiva tuttora il grano Khorasan, ma nessuno lo può chiamare Kamut. Perché è un marchio. Perché è un marchio registrato, esatto, come Nutella, iPhone o altre cose. Ma è vero che ha queste caratteristiche di alta digeribilità, che può essere utilizzato anche dai celiaci perché ha un basso contenuto di glutine? No, questo è assolutamente falso. Questa è una leggenda urbana che circola, anche piuttosto pericolosa. La Kamut International stessa sul suo sito dice: il nostro grano è molto simile al grano duro e contiene il glutine ed è assolutamente da sconsigliare sia ai celiaci sia agli allergici. C'è qualcuno che dice che lo trova più digeribile, ecco, questa è una cosa un po' generica, però è difficile andare a vedere quanto sia una questione di suggestione o quanto sia suggestione, intendiamo la suggestione. Esatto. I celiaci assolutamente non lo possono mangiare. Allora, adesso andiamo invece, torniamo al supermercato e sentiamo cosa ci dicono della patata al selenio. Ho visto la pubblicità delle patate arricchite al selenio, sì, ho presente. E le propongono come appunto patate che hanno questa marcia in più dovuta al fatto che questa caratteristica aggiuntiva per l'aggiunta di selenio. Sinceramente non ho approfondito, però devo dire mi sospettiscono. Il selenio lo conosco, è un minerale con proprietà antiossidanti. Il discorso è che avevo letto che vengono fatti crescere in terreni dove viene aggiunto, ed è un po' come il discorso dello iodio, nel senso mi chiedo sempre se viene aggiunto artificialmente quanto questo possa avere alla fine, più che una valenza positiva, una valenza negativa, e quindi alla fine mi dico perché non mangiare un cibo che contiene naturalmente del selenio o dello iodio piuttosto che andare ad aggiungerglielo artificialmente. Questa è una mia idea. Non lo so proprio, io mangio patata pasta gialla, patata pasta bianca e patata al selenio ignoro. Patata al selenio, cosa ci dici, Dario? È davvero così intelligente, così astuta come cosa? Sì. Ma allora, le patate di per sé sono tra gli alimenti che contengono meno selenio in assoluto. Il selenio è un microelemento che ci serve per il normale funzionamento del nostro corpo, come il ferro, le vitamine e tante altre cose. E quali sono gli elementi più ricchi di selenio, così? Esatto, cioè se uno ammesso che uno abbia una carenza di selenio, cosa che in Italia non risulta, noi abbiamo normalmente nella nostra dieta abbastanza selenio, se uno volesse, diciamo, prendere del selenio, può prendere ad esempio del pesce o delle frattaglie. Le frattaglie sono molto ricche di selenio, il fegato, il rognone e così via, oppure se uno non vuole prodotti animali, per esempio i broccoli o le cipolle, anche gli stessi cereali sono abbastanza ricchi di selenio. Questo è il motivo per cui in Italia normalmente non si riscontrano carenze di selenio. Per cui l'aggiunta di un po' di selenio in fase di coltivazione viene spruzzato sulle foglie delle piante e poi viene diciamo, inglobato dalla patata. Aumenta un pochettino la quantità, comunque piccola, delle patate, ma non ha non c'è un effetto rilevante, a meno che uno mangi patata al selenio 3 volte al giorno, cosa che probabilmente non capita. Qualcuno ci sarà, ma insomma. Normalmente non si dà un nome alle patate. Questo quindi è un modo che l'industria ha trovato per differenziare quella patata dalle altre e quindi facendosela pagare un po' di più. Questa idea di aggiungere cose, elementi, ha preso piede, perché ci sono adesso le carote allo iodio, ci sono tutta una serie di aggiunte a prodotti ortaggi normali. No, mi sorprende un po' questo fatto che si dica che fa bene, senza dire fa bene a che cosa. Cioè, dice che rende più intelligenti. Più no, ecco, una volta, quando c'è stata questa pubblicità, si diceva appunto che il selenio rende più intelligenti. In realtà l'EFSA, cioè l'autorità europea per la sicurezza alimentare, ha bocciato tutta una serie di claim salutistici di questo tipo perché non ci sono, diciamo, prove scientifiche sufficienti. Bufala anche questa. Maria. Torniamo al supermercato, parliamo di biologico questa volta. È una questione, diciamo così, più che altro di avere la certezza di mangiare un cibo sicuramente più biologico. Sicuramente il Kamut lo è, perché per essere diciamo così commercializzato, prodotto e commercializzato con marchio Kamut, deve essere sicuramente biologico. Diciamo è una certezza più che altro. Biologico perché lo conosco da quando ho sposato mio marito, appunto per via delle intolleranze a latte derivati, e soprattutto perché, visto che non fumiamo, non beviamo, diciamo, sopra il codice eccetera, almeno se quello che qualche altra persona spande in questo fumo e altre cose eccetera, meno ce lo godiamo sul mangiare bene, e quindi almeno per poter stare meglio. Il cibo biologico è sicuramente, come dire, per il fatto che comunque deve rispettare certe garanzie, sicuramente più sano. Allora, biologico uguale più sano, questo è quello che passa dagli utenti del supermercato. Certo. Ma allora, non è proprio così, nel senso che le motivazioni principali del biologico, della coltivazione biologica, e il motivo principale per cui è sovvenzionato dall'Unione Europea, ad esempio, è che ci sono molte volte, non sempre, ma insomma, facciamo così una discussione un po' generale, dei vantaggi per l'ambiente, nel senso che la coltivazione biologica utilizza meno sostanze che potrebbero essere dannose per la biodiversità, per gli animali e per gli agricoltori stessi, ne usa di meno, quindi c'è un vantaggio per l'ambiente. Questo però, oltre a portare a un costo superiore, spesso non è sufficiente per molte persone, perché siamo tutti ambientalisti con il portafoglio degli altri, diciamo così. Per cui il marketing spesso invece gioca molto sulla salute personale e cerca di far passare un po' l'idea che il biologico sia in qualche modo più sano, più sicuro del cibo convenzionale, della verdura convenzionale o degli ortaggi, cosa che non è assolutamente vera. Cioè, noi dobbiamo essere assolutamente tranquilli quando andiamo in un qualsiasi supermercato a comprare della frutta e della verdura, perché tutta la frutta e la verdura che è in vendita o la carne è adatta al consumo, ecco. Quindi non ho capito poi cosa diceva la signora, il collegamento tra appunto l'intolleranza al latte e il cibo biologico. Cioè, tutto più salubre, tutto più sano in generale. Ma se uno è intollerante al latte è intollerante anche al latte biologico, ecco. Sì, ma anche il collegamento tra chi fuma e chi invece spende i soldi in altro modo, vabbè, insomma, voleva giustificare la spesa, perché in effetti sono più costosi, Sono più costosi perché richiedono un lavoro superiore, e soprattutto hanno mediamente delle rese minori. Cioè l'agricoltore, a parità di terreno coltivato, ha delle rese minori. Il libro è molto bello, molto ampio, parla di uova, latte, mozzarella, vino, però direi in chiusura non possiamo non parlare della pasta. Io preferisco orientarmi verso altri tipi di grani antichi, come il senatore Capelli, che ho saputo essere molto simile al camut, è un grano duro, però nostro, e soprattutto nel senso più originale, tra virgolette, non registrato come marchio, e quindi anche questo purtroppo caro, perché hanno un prezzo elevato, mi spiegavano per un discorso di resa. Ecco, questo utente era preparatissimo, sì. Ha introdotto il tema del senatore Cappelli, qui è una storia veramente carina, interessante. Chi è questo senatore qua? Allora, il senatore Cappelli era il senatore Raffaele Cappelli, era un senatore del Regno d'Italia, che ha ceduto dei terreni per fare delle coltivazioni sperimentali a uno scienziato, un genetista agrario italiano, purtroppo poco conosciuto, Nazareno Strampelli, che è stato lo scienziato che ha prodotto, che ha introdotto tantissimi nuovi grani, nuovi frumenti, sia duro che tenero, in Italia all'epoca della la famosa battaglia del grano di epoca fascista, dove ha introdotto tutta una serie di nuovi grani facendo degli incroci e prendendo grani stranieri anche e tentando di introdurli in Italia allo scopo di aumentare le rese. Quindi lui ha chiesto dei terreni a questo senatore del Regno, Raffaele Cappelli, e quando è riuscito a introdurre un frumento, un duro particolare, che non è, attenzione, italiano, ma è tunisino, ha un'origine tunisina, però... Siamo sempre lì intorno, Sì, e quindi l'ha registrato negli anni 20 sotto il nome di questo suo amico senatore. Ha spazzato via tutti i vari grani duri autoctoni italiani, perché aveva una resa molto superiore all'epoca, ed è stato usato fino almeno agli anni 50 in Italia, dove poi a sua volta è stato sostituito da altri grani a rese ancora superiori. È un buon grano, a me piace questa pasta, e ho dedicato questo capitolo del libro non perché si racconti una bufala, ma perché volevo rendere omaggio a questo scienziato italiano molto poco conosciuto, ma che ha fatto dei grandissimi avanzamenti nella genetica agraria del frumento, e meriterebbe che si parlasse un po' più di lui, di Nazareno Strampelli. È un grano di alta qualità, tra l'altro, che viene utilizzato dai grandi chef. Sì. Io andrei avanti per ore con Dario, come sempre, magari torneremo. Il consiglio che possiamo dare a chi ci sta ascoltando, insomma, è di leggere bene le etichette, perché tante cose sono scritte e bisogna un po' studiarsele. Sì, le etichette, le confezioni, se uno le legge con occhio critico capisce molte cose. Tornando al camut, per chiudere il cerchio, camut sempre ha scritto un cerchiolino con una R, e si vede che è un marchio registrato, solo che uno non ci fa caso. No. Va bene, grazie Dario davvero per il tuo lavoro. Grazie a voi. Ciao, buon lavoro. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Sottovuoto ci sono i pelati, quelle marmellate che si fanno d'estate. Tutte quelle cose che con l'aria si deteriorano. Non so se è anche il caso del legno. Cioè non ci sono delle scatolotte che tu tiri via. No, le latte, non lo so, Ma adesso andiamo ad approfondire il tema, perché in realtà si chiama termovuoto. È un nuovo materiale, in realtà è un processo che viene eseguito sul legno e rende questo materiale bello, resistente e amico dell'ambiente, così scherzosamente. Spot. L'abbiamo detto nei titoli, e allora adesso chiederei di introdurci tutto quanto a colui che l'ha inventato e ci ha lavorato. Ottaviano Allegretti, buonasera. Buonasera Allegretti. Lei è ricercatore dell'Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree del CNR, che ha sede a San Michele all'Adige a Trento, e state proprio lavorando, avete messo a punto e avete ricevuto anche un buonissimo fondo proprio per questo termovuoto. Se intanto ci può raccontare che cos'è, scherzosamente abbiamo detto legno sottovuoto. Sì, diciamo che grosso modo è quello che avete detto voi, nel senso che il termovuoto è un processo più che da cui deriva materiale che appartiene a una famiglia di processi di modificazione termica del legno, cioè l'esposizione del legno ad elevate temperature nell'intervallo diciamo fra 160 e 220 gradi in condizioni anossiche, ovvero prive di ossigeno, altrimenti il legno prenderebbe naturalmente temperature fuoco, è causa di una pirolisi che produce una degradazione diciamo controllata di micellulose e altre sostanze contenute nel legno, che sono responsabili di alcune proprietà diciamo indesiderate di questo materiale. Con il vostro procedimento, proviamo a descriverlo in un modo abbastanza semplice e immediato, ma che cos'è che avviene esattamente nella macchina che usate per ottenere questa cosa? Questa macchina è un reattore, diciamo, chiamato reattore, che è un cilindro contenuto al vuoto in cui vengono messe delle cataste di legno. Nella nostra è in piccola scala, gli impianti industriali sono su grande scala. Sì. Viene fatto il vuoto su questa macchina, sono vuoti non assoluti, ma vuoti che viaggiano nel range fra 50 e 250 millibar, tenendo presente che il vuoto assoluto è 1000 millibar, un bar sono della pressione atmosferica, insomma, per intenderci. In quelle condizioni l'ossigeno ha una bassissima percentuale, diciamo la vera innovazione tecnologica è in quelle condizioni è molto difficile trasmettere conduttivamente il calore al legno, cioè in condizioni di vuoto il calore non si trasmette, cioè non c'è aria che trasmette, che trasporta calore al legno. Certo, c'è un sistema diciamo di ad alta efficienza con dei ventilatori particolari che riescono comunque in quella che muovono l'aria, poca aria che c'è. A elevatissima velocità, con una elevatissima frequenza, riescono a trasmettere comunque il calore sufficiente. Si parla di grandi quantità di calore che devono essere trasmesse al legno. Sì. E cosa succede al legno in questo modo? Non arde, ma perde. Non arde, si consumano alcune sostanze che vi sono all'interno. Tipo? Le sostanze. Tipo le emicellulose, che sono le sostanze diciamo che sono quelle che poi sono appetite dai funghi e provocano il deterioramento del legno. Provocano il deterioramento, sì, perché i funghi sono quelle che si mangiano di preferenza e sono quelle che causano diciamo soprattutto i movimenti nel legno, cioè i ritiri dei movimenti nel legno poi esposto in condizioni normali che fanno sì che per esempio una finestra all'inizio chiuda bene, poi dopo un po' invece abbia dei problemi perché si curva, perché si rigonfia o si curva, cose del genere. Certo. Questi qui sono problemi ben noti nella tecnologia del legno e diciamo questo qui è un durante questo processo fa sì che in realtà riduce questi due soprattutto questi due tipi di problemi. Sono questi che quindi consente per esempio di utilizzarlo all'esterno. Sì, che consente esattamente. Sì. Un'idea è anche adesso quella, noi avremo anche un'idea per esempio di costruire un ponte questo progetto di costruire un ponte completamente in legno termovuoto perché può resistere alle condizioni esterne e non ha degradazioni meccaniche. Poi io non so quanto diciamo possiamo addentrarci nei dettagli tecnici, quello che cambia è appunto un processo sottrattivo rispetto a un processo additivo, nel senso che viene tolta aria semplicemente, questo produce di fatto, questo era in teoria ma poi si è verificato anche in pratica, dei risparmi di consumi energetici importanti e questo fa sì che sia un processo secco e non umido come i processi classici, ovvero un processo in cui non vi è assolutamente acqua, che è diciamo un catalizzatore di alcuni processi che fa sì che il legno poi si rovini più del dovuto. Questo è il vantaggio, nel senso che prima dicevamo un po' scherzando, bello, resistente, amico dell'ambiente, ha ricevuto un fondo dalla comunità europea di 1,8 milioni di euro, che non è che siano bruscolette, proprio per questo motivo, nel senso che tutto questo processo è altamente efficiente e sostenibile. Ma non solo, a differenza per esempio dei legni, per esempio quando si va in un negozio di articoli per giardinaggi, ci sono quei legni verdi, che sono legni trattati con sostanze chimiche per farli durare in esterno, questo legno assolutamente senza nessun uso di sostanze chimiche, che vuol dire che alla fine del ciclo di vita del prodotto può essere smaltito, bruciato come legno normale oppure smaltito come rifiuto normale. Non ha bisogno di ulteriori lavorazioni. Non ha bisogno di ulteriori lavorazioni, questo diciamo è un grosso vantaggio. Il terzo vantaggio è che questo trattamento, almeno nell'intenzione del progetto, che prevede una fase produttiva, di non utilizzare legno di importazione tropicale. Ecco, perché quel legno di importazione tropicale ha prestazioni migliori, spontaneamente diciamo. sì, esattamente. Vi permetterebbe di utilizzare tutti quegli abeti che a San Michele all'Adige avete e che altrimenti non avrebbero potuto essere utilizzati o comunque sarebbero dovuti essere trattati in maniera differente. E anche, anche altri bellissimi legni che abbiamo in Europa, diciamo in Italia e in Europa, che hanno uno scarsa, diciamo, non sono competitivi rispetto per esempio agli legni tropicali, anche perché diciamo possiamo ottenere con toccandosi i parametri del processo, tempo, pressione, temperatura, possiamo ottenere delle gradazioni di colorazione in pratica su domanda. E questo è un altro bellissimo aspetto di questo, si ottengono delle colorazioni bellissime che assomigliano come il legno vira verso tonalità scure, assomigliando molto fortemente a alcuni tipi di legno pregiato tropicale. Al Wenge, che va tanto di moda, ecco. Per esempio, ecco. Sì. Dopodiché a vederlo e a toccarlo si ha la sensazione del legno, no? È legno. Cioè... Di fatto è legno, si lavora come legno, si incolla come legno, viene piallato come legno, è legno, quindi diciamo è legno, sì. Ed ha una colorazione che va in profondità nella tavola, anche se una tavola trattata di magari di centimetri di spessore, che può essere per esempio scolpito senza dovere poi, voglio dire, farsi colorarlo, certo. Sì. Quindi con il vostro processo, lavorando l'abete rosso, siete riusciti a tirar fuori quelli che sono i pro, quindi la resistenza, la permeabilità, che invece naturalmente non ha. Sì, sì, i risultati sono stati, diciamo, abbiamo costruito un primo prototipo. Questo prototipo, diciamo, è stato messo a punto per alcune difficoltà tecniche nel lavorare a alte temperature sotto vuoto, di cui non mi dilungo, però diciamo una volta che questo impianto è stato messo a punto e noi abbiamo iniziato a lavorare su queste abete rosse, i risultati, poi misurando questi risultati anche in collaborazione con i colleghi di Uppsala, dell'Università di Uppsala in Svezia, anche i nostri colleghi di Livalza di Firenze, abbiamo avuto alcuni risultati sorprendenti, cioè c'erano, come atteso, un aumento della durabilità di questo legno, un aumento della stabilità dimensionale anche fino al 60%, ma anche abbiamo avuto che non c'erano nessuna variazione significativa delle proprietà meccaniche e nessun odore. È stato un grosso passo avanti, legato ad altri passi avanti dovuti al fatto che questo processo è prodotto con un taglio, diciamo, dei consumi energetici fino al 50-60% rispetto ai prodotti tradizionali, ai trattamenti di tipo tradizionale. E siete in collaborazione con delle aziende? Sì, siamo in collaborazione con delle aziende, diciamo il capofila è l'azienda di Terni, la VDM Aspel, che lavora con noi, con la quale siamo venuti all'idea. Poi c'è il consorzio Servizi Legno e Sughero, poi c'è Arredomare, che è un'azienda italiana che produce arredamenti per imbarcazioni di lusso, con la quale c'è in questo progetto l'idea di creare arredamenti per la nautica, e Colwood, che è un'azienda francese. E poi c'è l'Università di Uppsala, che sono i nostri partner, co-partner scientifici in questo progetto. E anche la partnership è coordinata dalla IGC di Torino, che è l'azienda di consulenza specializzata nella partecipazione ai bandi di finanziamento europei, che è quella che ha preparato il progetto e l'ha presentato. Va bene, grazie davvero Allegretti, buon lavoro, ci faccia grazie sapere. Buonasera. E tu, chiaro ormai, ma è giusto, lo chiami Luca. Io ormai lo chiamo Luca, lui ci ha detto di chiamarlo Luca, in realtà lui vorrebbe, credo, essere chiamato Luke Skywalker, ma vabbè, insomma, ma c'è vicino. È il nostro Luca Parmitano, che è in orbita ormai da più di 2 mesi nello spazio, nella Stazione Spaziale Internazionale, e qualche giorno fa si è collegato a Torino in un incontro organizzato dall'Agenzia Spaziale Italiana e da quella europea, nella sede di Thales Alenia Space e Altech, che è il centro ingegneristico dell'ESA, e appunto lì lui ha rivolto dei saluti, ha raccontato di queste due, perché ricordiamolo, lui è il primo italiano ad aver effettuato due passeggiate spaziali per sistemare alcuni moduli all'esterno della stazione spaziale. Una è andata molto bene, durata 6 ore, è stato molto bravo. Nella seconda ha avuto dei problemi nel casco, risolti, e però è dovuto rientrare. Lui ovviamente di queste esperienze racconta tutta la parte tecnologica e innovativa, ma io vorrei far ascoltare agli ascoltatori il nostro Alberto Agliotti, era lì a salutarlo per noi e a raccogliere la testimonianza. Sentiamo questi passaggi un pochino più personali, un po' toccanti, più romantici, sì, più teneri, di quelle che belli sono state le sue sensazioni di queste passeggiate spaziali, e soprattutto che cosa manca a lui dell'Italia. Mi piacerebbe avere un vocabolario, un'eloquenza che mi permettessero di esprimere veramente appieno quella sensazione che ho provato quando per la prima volta sono uscito fuori nel vuoto, protetto semplicemente da una tuta spaziale. Ma purtroppo non sono né un poeta né un intellettuale, ma mi mancano veramente le parole per esprimerlo. È qualcosa di che veramente cambia dall'interno una persona, vedere il nostro mondo dall'alto, con i suoi colori, con un'esplosione di colore, veramente separato soltanto dallo spessore del visore del casco spaziale, è una sensazione bellissima di rinascita. E parlo di esplosione di colori perché mentre mi trovavo sul braccio robotico, quando per la prima volta ho visto l'alba spaziale da fuori, l'alba arriva in pochissimo tempo, è veramente dal nero, che è un'assenza totale di colore, tutto viene inghiottito in questa esplosione di colori bellissimi. Io ero sopra l'Africa e quindi è tutto un insieme di rossi, di gialli, di ocra che hanno veramente riempito il mio sguardo, i miei occhi. Ed è qualcosa che mi porterò per sempre dentro, che nulla potrà cancellare, e neanche gli eventi della seconda via possono smorzare la voglia che ho di poterlo fare ancora e di poter completare il lavoro che ho iniziato e che purtroppo non ho potuto finire. Mi mancano le bimbe, io sono padre di due bimbe piccole, hanno 3-6 anni, le vedo una volta alla settimana e non poterle abbracciare è veramente difficile. Poi ecco, mi manca un bel caffè espresso ristretto come piace a me, come sanno farlo solo in Italia. Ecco, qui a bordo della stazione ancora non abbiamo la tecnologia che ci permetta di avere un buon caffè. E infine, io sono siciliano, per me l'estate è sempre stata legata all'idea del mare, della brezza marina con i suoi profumi, e forse questo ambiente che non ha odori, che è forse un po' asettico, forse ecco, questo è qualcosa che mi potrebbe mancare. Ma io sono ben contento di essere qui e non cambierei assolutamente il lavoro che sto facendo con nessun'altra cosa. Beh, certo, un siciliano senza la brioche e la granita per così tanti mesi, certo. Durissimo. Lo so, però devo dire che ha altre soddisfazioni, senz'altro. Allora, insomma, per chi è in vacanza, buone vacanze, e noi ci risentiamo tra 7 giorni. Buona settimana a tutti e a tutte.